La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Gli articoli 73 e 74 riguardano l'ultima fase del procedimento legislativo. Il procedimento legislativo parte con l'iniziativa, quindi la proposta di legge, articolo 71, poi viene esaminata ed approvata, articolo 72, e quindi dopo l'approvazione parlamentare definitiva abbiamo la fase della cosiddetta integrazione dell'efficacia, ovvero promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'articolo 73 stabilisce in particolare che le leggi, una volta approvate, sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese. Dopodiché, nel mese successivo, vanno pubblicate ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione. Quindi la vera e propria efficacia della legge discende dalla pubblicazione ufficiale. La pubblicazione ufficiale tradizionalmente avveniva sulla cosiddetta raccolta ufficiale degli atti normativi, in gergo RUAN, con questa sigla un po' ruvida. La RUAN è la pubblicazione sulla quale appaiono consecutivamente, anno per anno, tutte le leggi e tutti i decreti, e quindi è lì che prendono la numerazione. Accanto alla raccolta ufficiale abbiamo poi la Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale è il giornale di Stato, cioè il giornale in cui vengono pubblicati gli annunci ufficiali, gli annunci statali, gli annunci pubblici. Per tutta la storia del Regno e della Repubblica facevano fede entrambi i testi, raccolta e gazzetta. Dal 1985 invece il testo che fa fede in via primaria è quello della Gazzetta Ufficiale. Quindi, per entrare in vigore una legge, un atto normativo, occorre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decorrono 15 giorni, perché tradizionalmente la legge non deve immediatamente entrare in vigore, ma serve un termine minimo, questi 15 giorni chiamati dai giuristi vacatio legis, affinché la legge sia conosciuta e quindi i cittadini possano capire come conformarsi al comportamento, agli obblighi previsti dalla legge. Va segnalato che in epoca di banche dati e di reti informatiche lo Stato sta predisponendo una grande banca dati con tutte le leggi italiane. Ormai la Gazzetta Ufficiale appare su un sito apposito che è gazzettaufficiale.it, ma il sito più interessante, sempre curato dalla Gazzetta Ufficiale insieme a Camera, Senato e Presidenza del Consiglio, è normattiva.it, normattiva con due T. È il sito in cui appaiono gratuitamente tutte le leggi italiane. Il sito non è ancora completo, è in via di completamento, tuttavia è molto importante perché ciascun cittadino può consultare con sicurezza e con certezza tutte le leggi emanate dallo Stato italiano dal 1861 ad oggi. E stiamo parlando di un complesso normativo di oltre 186.000 atti.